Una buona serata, Radio Città Fujik in compagnia di Max Macchia. Buonasera per chi si mette in onda in questo momento, chi invece sta ascoltando da un po' di tempo Radio Città Fujik. Saluto anche il buon Luigi che ha appena lasciato insomma la console. Saluto anche, come dire, i presenti qua a Città Fujik, perché ci sono anche quelli, le mascotte, sempre che non si offendano appunto in quanto tali, in realtà non sono solo quello. E 451 questa sera che si occuperà di textura, le testure, volendo in italiano, anche se poi texture forse ci indica meglio, forse in maniera più globale, quello che tratteremo questa sera. È una trasmissione dedicata agli intrecci compositivi, a come questi poi diventino di fatto insomma materia trattata per comporre brani piuttosto densi, piuttosto lunghi, piuttosto insomma legati a un flusso non soltanto di coscienza, ma anche sperimentazioni legate al suono, alla musicalità in divenire, e quel suono che poi insomma è diventato storico con il minimalismo, con la drum music, anche se questa sera poi di fatto tratteremo anche quella che è considerata musica contemporanea, la modern classic, classical, molti insomma hanno definizioni di vario tipo per compositori appunto odierni che hanno una continuità con le grandi composizioni del passato, ma hanno anche e quella linea di rottura del Novecento, quello delle avanguardie, delle neoavanguardie. In effetti poi a ben vedere il padre di questo suono per molti versi è il minimalismo. In effetti concluderemo con forse il padre del suono minimalista, una delle ultime uscite bootleg, ma senza anticipare, anche perché insomma il viaggio sarà piuttosto lungo. Iniziamo con, se non un padre, uno delle grandi figure di riferimento di un certo modo di intendere il minimalismo, magari mischiandolo con il gestualismo e con quel senso anche del gioco che diventa anche brutale, crudo in alcuni aspetti. Stiamo parlando di Charlemagne Palestine, e con il suo splendido capolavoro e portava la minimal music verso lidi differenti. Strumming Music fu un disco eccezionale e per l'apertura, se pensiamo insomma che Palestine è stato fondamentale per percorsi come quello di ad esempio di Pansonic, ma anche per un certo modo di intendere il suono drone minimal, che diventa qualcosa anche di potente, anche vicino a certo noise, anche se paradossalmente Strumming Music non lo è affatto. Però molte opere poi, tra l'altro edite anche molto tardi, di Charlemagne Palestine, la notorietà è arrivata tardi per il grande compositore americano, sicuramente ci informano anche su un modo di trattare appunto la tessitura, la texture in maniera potente, anche in maniera anche rumorista, noise. E nel 77 c'era appunto questo gioiello che era Strumming Music. La Sub Rosa da qualche mese ha fatto uscire un triplo CD dove tra l'altro c'è la versione originale pensata per organo, anzi per piano, e poi appunto quella per organo recuperata appunto dagli archivi degli anni 70 di Charlemagne Palestine, e una faccenda piuttosto bella e curiosa, perché c'è anche una Strumming Music per archi, Strumming for String appunto, e curava tutta la faccenda, la direzione, quindi l'architettura sonora. Ora qua ci vuole, infatti parliamo di archi, John Adams, che all'epoca, stiamo parlando della metà degli anni 70, ebbe un inizio folgorante dentro la scuola se vogliamo chiamarla scuola, forse dentro il movimento, per meglio dire, non era ancora insomma una scuola, se mai è stato, seguendo magari le orme di un altro grande degli anni 70, ovvero Philip Glass. John Adams, che poi nel corso degli anni si darà come appunto il suo mentore, Glass, a una sorta di post minimalismo orchestrale, aprendo poi strade ai vari Niemann e compagnie, insomma minimal orchestrale potremmo dire, anche se poi il suono orchestrale chiaramente porta verso altri lidi, non più tessiture minime, ma sicuramente insomma più grosse, perlomeno in termini strumentali, ma anche in termini di sonorità. Appunto John Adams, storico del minimalismo, della prima fase perlomeno della sua carriera, trattava in maniera assolutamente magistrale Strumming Music, appunto adattata per archi, e apriamo appunto questa tessitura, questi intrecci di 451 con questo gioiello recuperato in maniera anche insomma straordinaria da parte della Sub Rosa. Charlemagne Palestine con la sua Strummy Music, capolavoro non soltanto del minimalismo ma dell'arte del tessere, ma potremmo proprio parlare di un intreccio strepitoso, di una musica che si fa tanto, tanto potente quanto poi anche stordente, proprio in termini insomma di flusso, di quindi anche capacità nel trasportare attraverso un suono che diventa quasi, quasi vivo, in questo senso è organica la musica di Charlemagne Palestine. E tra l'altro l'abbiamo ascoltato da una versione inedita fino prima, dicevo, pochi mesi fa, in realtà pochi anni fa Sub Rosa stampava questo triplo CD, questo cofanetto, e appunto la Strummy Music for String per molti anni insomma è rimasta celata ai più, ed è veramente una grande epifania ascoltarla, anche per capire perché appunto prima citavo Pansoni, ma potremmo citare anche certo Fennez e certa scuola insomma tra il noise e il glitch che ha preso veramente tantissimo da Palestine, con dediche e anche con collaborazioni. E qua tra l'altro il lavoro veniva trattato da John Adams, che è sempre stato molto molto bravo a trattare gli archi, a trattare l'orchestra, tant'è che poi è diventata quasi una dalla virtù insomma di John Adams degli anni 70, poi è diventata quasi una faccenda ma manieristica, manierata, tant'è che le sue musiche insomma soffriranno anche di queste composizioni e di questo suono orchestrale che insomma prenderà sicuramente un tono più decadente, non più legato quindi all'avanguardia del minimalismo, come d'altronde poi appunto il suo mentore, prima dicevamo Glass, ma anche lo stesso Palestine, visto che Adams trattava gli archi, conduceva, organizzava questa music Strummy Music for String, e sia Palestine che Adams erano dentro insomma collaborativi rispetto ai musicisti di San Francisco, del Conservatorio di San Francisco, tutti e due collaborarono, e tra l'altro di Adams del primo periodo, che questa sera insomma mi sembra il caso di far ascoltare anche per veramente spezzare, come dire, rompere anzi una lancia proprio a favore di John Adams del primo periodo. E andiamo a prendere proprio una delle prime opere sue, Phrygian Gates, disco straordinario, opera veramente di grande respiro per come viene trattato il piano, ma anche per come viene trattato l'orchestra, in Snaker Loops, che è l'altro pezzo minimalista di oltre 25 minuti. C'è veramente un assaggio anche molto interessante di quello che è appunto uno sviluppo, anche se vogliamo, delle musiche minimaliste legate alle orchestre. Ma noi andiamo su quel suono di pianismo eccelso di appunto John Adams, e andiamo appunto a prendere queste Phrygian Gates, tuffandoci e facendoci così facendoci trasportare da appunto un tuffo iniziale, per poi appunto come dire farci portare lontano dalle musiche splendide di John Adams. a sfiorare l'ineffabile qua, uno splendido John Adams, per ricordare insomma uno dei grandi maestri, forse un po' sottaciuto per via insomma delle opere altisonanti degli anni Ottanta. Ricordiamo Nixon in Cina, che ha anche momenti decisamente brillanti, però insomma di certo le opere degli anni Settanta e anche quella splendida direzione degli archi di Strumming Music insomma ci fanno ricordare questo, soprattutto Phrygian Gates, un Adams che per molti versi apriva proprio la strada, o se vogliamo, per altri, se vogliamo essere cattivi, la chiudeva, perché in un certo qual modo poi sia Neiman che con il suo Decay Music fece un disco capolavoro del minimalismo, tra virgolette, insomma classico moderno, e per poi darsi insomma un suono orchestrale che avete sentito molto insomma influenzato dalle sperimentazioni di Adams, ma potremmo anche citare certo Wim Mertens, anche per questo senso molto delicato di questo pianismo che ci porta insomma anche su lidi piuttosto sconfinati insomma, e chiaramente quando si apre poi una strada, o se vogliamo essere cattivi insomma si chiude, ma quello è un discorso insomma che non appartiene di certo alle opere aperte come Phrygian Gates, seppur poi con il tempo diventano insomma delle specie di standard, anche se pensiamo a certo Glass degli anni Ottanta, anche lui come ha standardizzato un suono diventando insomma un compositore poi di fatto decadente, ma appunto questa apertura, prendiamola come tale, perché tale è, di Phrygian Gates, ha dato anche molto spazio a quello che sarà anche una grande riscoperta del minimalismo, ad esempio Irritable Edge Hog, etichetta americana, da qualche anno cura un suono che riprende tanto da John Adams, da questi Phrygian Gates, e tanto insomma da quel suono che alla fine degli anni 70 dei grandi maestri del minimalismo si stava sviluppando in altro, e appunto una delle uscite più belle di Irritable Edge Hog è sicuramente quella di Dennis Johnson, autore misconosciuto qua, eseguito da Andrew Lee in maniera straordinaria. Sono quattro CD più quasi cinque ore di musica al piano, anche qua un suono che va a toccare le fine, vuole appunto cercare questo quasi dissolvimento attraverso queste note che sembrano quasi di sciogliersi, anche un po' evocare quello che probabilmente è il grande riferimento del Novecento per le musiche minimaliste, chiaramente, e di tutte le texture musicali. Ovviamente stiamo parlando di Erik Satie, non soltanto lui, chiaro, fu di riferimento, però sicuramente per quanto riguarda la composizione occidentale, sì, poi sappiamo insomma le faccende legate al gamelan, alle musiche rituali studiate insomma dai tanti minimalisti, ma appunto ritrovando quest'ombra che un'ombra gigantesca che veramente arriva fino ai nostri giorni, quella di Satie, la troviamo anche dentro le composizioni di Danny Johnson, questo splendido November appunto eseguito da questo bravo, ottimo, anzi pianista americano, tra l'altro anche professore insomma di musica, quindi qua siamo sempre ai limiti insomma tra grandi conoscitori della tecnica musicale e anche così quelli che poi riescono a stravolgere anche questa tecnica, o perlomeno a portarla su lidi che non sono accademici. Il post minimalismo insomma di Irritable Edge Hog può essere insomma sicuramente di buon auspicio rispetto alle musicalità e ai suoni di textura che possono ancora essere appunto espressi da musiche che nascono aperte, che evidentemente insomma nel loro punto maggiore lo sono senz'altro, appunto come in questa ancora in sottofondo Phrygian Gates. Ma andiamo ad ascoltare appunto Danny Johnson da questo splendido November, è uscito tra l'altro l'anno scorso, appunto nel 2013.